the man must be Jesus. Going around must be Jesus. Molti dei fratelli della comunità afroamericana pensavano che l'aveva combinata grossa, che era uno scellerato, un uscito di senno, un pazzo. I più conservatori lo consideravano un miscredente, un blasfemo, un eretico. Ciò che aveva fatto non andava assolutamente bene. Non si poteva mischiare sacro e profano. Il diavolo è l'acqua santa. Beh, non si poteva, ma lui l'aveva fatto. E da allora la musica non sarà più la stessa. L'idea gli era venuta una sera in macchina nel viaggio da South Bend, dove aveva suonato con la sua band, verso Nashville. Alla radio stavano trasmettendo questa It Must Be Jesus dei Southern Tones, un vecchio classico inno al Signore. A Ray viene l'idea di combinare questa melodia gospel, ravvivarla tenendo a mente un vecchio blues di Big Bill Bronzy, Living on a Easy Street, e accoppiargli il testo di un brano scritto dal suo trombettista, Renard Richard. Il risultato fu una fragorosa detonazione nel campo della musica. Un Big Bang, una roba scioccante e inaudita. Nessuno aveva mai fatto nulla di simile. And the women all call me King. Curioso che a farlo fosse un pianista nero, cieco e con alle spalle una vita segnata dagli stenti e dalle tragedie. I've got a little woman, cooks me cake every day. She gives me money just to throw away. Come home in the morning, noon or night. Anni dopo diranno che quella musica aveva un'anima e inizieranno a chiamarla soul, anche per giustificare l'acquisto di dischi da parte dei discendenti della Mayflower. Ray aveva una nuova band che si era andato formando lungo la strada. Oltre al suo piano, basso, chitarra, batteria e una ricca sessione fiati, con due trombe e due sax. Si trovavano ad Atlanta, dove avevano in programma varie serate al Peacock Club. Ray si sentiva pronto, maturo, ispirato. Non voleva però andare a registrare con i musicisti dell'Atlantic e seguire gli arrangiamenti di Jesse Stone, con il quale aveva anche litigato. Voleva suonare la sua musica con i suoi ragazzi. Voleva essere Ray Charles e non un prodotto dell'Atlantic. Il 18 novembre del 54 avvisa i capi della discografica di supervisionare le session perché avrebbe registrato dalla radio della Georgia School of Technology e che ogni notiziario avrebbero dovuto interrompere. Now let me tell you people about this blackjack game. Il brano d'apertura è questa Blackjack, un blues che fa subito notare che la voce di Ray non è più la stessa. Hey, hey, hey, yeah. How unlucky can one man be? Poi la svolta. Well. Quell'urlo da predicatore. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah. Say I got a woman way over town good to me. Oh yeah. She give me money when I'm in need. Yeah, she's a kind of friend indeed. I got a woman. Just for me. as good to me. Never grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a woman's place is right there now in her home. I got a woman way over town that's good to me. Oh, oh yeah. Say, I got a woman way over town. Oh yeah, oh she's my baby, don't you understand? Yeah, I'm a lover man. I got a woman way over town that's good to me. Oh yeah, don't you know she's alright? Don't you know she's alright? She's alright, she's alright. Jamesetta Hawkins è la figlia della 14enne Dorothy Hawkins e di un padre misterioso, ma che lei ha sempre creduto fosse il celebre giocatore di biliardo Minnesota Fats. La madre la dà via un po' a tutti e non ha tempo di dedicare alla figlia. Così Jamesetta cresce con famiglie adottive. A 5 anni la sua prodigiosa voce faceva accorrere nella chiesa battista St. Paul moltissima gente della zona est di Los Angeles per ascoltarla nel coro Icho Sofiden. Il direttore del coro, James Earl Hines, è il suo primo severo maestro di canto. Più che severo, Hines è una canaglia. I suoi metodi brutali e violenti sono un vero e proprio abuso. La piccola si becca un pugno nel petto quando non canta con il diaframma. Gli abusi continuano anche in casa. Suo padre adottivo, il temibile Sarge, durante le partite a poker a gomiti alti, svegliava nel cuore della notte la bambina e a base di schiaffi e percosse la costringeva a cantare per gli amici. A 12 anni fa parte di un gruppo vocale di ragazzine mulatte, The Creolettes, notate dal gigante Johnny Otis, che cambia sia il nome del gruppo in Peaches, sia quello di Jamesetta, applicando la proprietà commutativa ottenendo Etta James. Johnny Otis adorava il botta e risposta fra uomo e donna nelle canzoni. L'occasione era perfetta per ciò che aveva in mente. Una answer song, una canzone di risposta, a un celebre successo di Hank Ballard e i suoi Midnighters, Work With Me Honey. Work with me honey, let's get it while the getting is good. So good, so good. Le answer song sono sempre esistite. Solitamente sono prese di distanza, spesso parodie dell'originale. Sono canzoni che surfano l'onda del successo della canzone che ha originato la risposta. You ain't nothing but a hound dog. Been snooping around my door. La moda era scoppiata con Hound Dog di Big Mama Thornton, che vantava 6 canzoni di risposta, fra le quali la famosa Beer Cat di Rufus Thomas. Ci sarà poi la risposta della risposta con Man Is Boy di Muddy Waters, risposta di I'm a Man di Bo Diddley, che a sua volta era la answer song di Uchi Kuchi Man. Oppure la straordinaria Nina Simone, che risponde con Come On Back Jack a Hit The Road Jack di Ray Charles. O la lisergica replica positiva di Eric Burdon e i suoi Animals americani al grande quesito hendrixiano Are You Experienced? You ain't nothing but a hound dog. Spesso la risposta, soprattutto negli anni 50-60, è interpretata dal punto di vista del sesso opposto, come in questo caso, dove Etta James reclama le attenzioni di Henry, interpretato dal mitico Richard Berry, il personaggio più bistrattato della storia della musica, che anche in questo caso non riceverà un penny, nonostante abbia contribuito con le sue improvvisazioni vocali alla scrittura del brano, attribuito invece solo a Hank Ballard, Johnny Otis e Etta James. Work With Me Annie è la canzone che accumula più risposte nella storia e senza ombra di dubbio The Wallflower, conosciuta come Roll With Me Harry, quella che ha ottenuto più successo. Il pezzo raggiunge il numero 1 Rhythm and Blues e garantirà al gruppo un tour con Little Richard. Hey baby, what do I have to do to make a hit with you? You gotta dance with me, Henry. All right, baby. Proprio mentre sono on the road, la regina indiscussa dello sbiancamento, la zecca Georgia Gibbs, colpisce ancora e ne fa una sterile versione intitolata Dance with me, Henry, che ovviamente arriva in vetta alle classifiche pop. Loro sono Etta James and the Peaches e questa la ormonatissima The Wallflower. Spupazzami, Henry. Hey baby, what do I have to do to make you love me too? You got to roll with me, Henry. All right, baby. Roll with me, Henry. Don't mean maybe. Roll. Il 2 di ottobre Elvis corona uno dei suoi grandi sogni, esibirsi nella cattedrale del country a Nashville al Grand Ole Opry. il festival che ascoltava fin da bambino. Assieme a Scotty e Bill, stravolge il classico di uno degli storici di quel palcoscenico, il re del bluegrass, Bill Monroe. You're a heartbreaker, you're a love faker, but you can't break my heart anymore. Nel cuore del country più conservatore, il pubblico si mostra freddo. Il presentatore del programma suggerisce a quello sfacciato diciannovenne di tornare a guidare i camion. I vecchi guardavano con disprezzo e superiorità quel moccioso che accelerava le loro canzoni, non sapendo che da lì a poco sarebbero stati da ospizi. Qualche giorno dopo, il 15 d'ottobre, suonano al Louisiana Hayride, un grande holoprae per il proletario, un trampolino per giovani talenti lanciati verso il successo. L'Hayride è il secondo festival country più importante e si poteva sentire ogni sabato sera nella Louisiana, Arkansas o Arkansas come dicono loro, Mississippi, Tennessee e la parte est del Texas. Elvis piace così tanto che diventa ospite fisso al festival e inizia un estenuante tour di oltre 30.000 km in 3 mesi, conquistando sempre più pubblico. A impazzire sono soprattutto le ragazze, incapaci di contenersi di fronte a quell'irresistibile impulso sessuale. Nel dicembre del 54 registrano il loro terzo singolo alla Sun. You're a heartbreaker, you're a lovebreaker, a heartbreaker playing with fire. Il lato B non è certo memorabile con questa You are heartbreaker, ma l'altra facciata è una grandissima interpretazione di Elvis di un vecchio slow blues di Kokomo Arnold, Mill Cove Blues. L'inizio è lento, poi il re annuncia la sgassata per trasformarlo in un feroce rockabilly. Questa è Mill Cove Blues. Oh well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old Mill Cow with the way she looks. Hold it, fellas. That don't move me. Let's get real, real gone for a change. Well, I woke up this morning and I looked out the door. I can tell that old Mill Cow, I can tell the way she looks. Now if you saw my Mill Cow, please drop her on home. I ain't had no milk and butter since that cow's been gone. Well, I tried to treat you right day by day. Get out your little prayer book, get out on your knees and pray, boy, you're gonna need. You're gonna need your loving daddy's help someday. Well, you're gonna be sorry treating me this way. Everything to get along with you. I'm gonna tell you what I'm gonna do. I'm gonna quit my crying. I'm gonna leave you alone. If you don't believe I'm leaving, you can count the days I'm gone. I'm gonna leave. You're gonna need your loving daddy's help someday. And you're gonna be sorry for treating me this way. Le origini del brano risalgono a una registrazione del 1935 del duo Aaron Pynton Sparks con suo fratello Milton. Nel 1949 Memphis Slim la trasforma in un classico del blues, riscrivendole e cambiandole il titolo in Nobody Loves Me, conservando solo la prima strofa dei fratelli Sparks. Il brano, arricchito con assoli di saxo e chitarra, raggiungerà la notorietà e il terzo posto in classifica nel 1950 con la versione di Lowell Fulson, che gli cambia il titolo conservando l'originale dei fratelli Sparks. Every day. Sarà questa la versione che userà B.B. King per far conoscere al mondo intero la sua Lucille. Nell'inverno del 49, durante un concerto in un nightclub nell'Arkansas, scoppia una rissa fra due uomini leggermente alticci. Nel parapiglia fanno cadere un barile di cherosina in fiamme che serviva da fonte di riscaldamento. In pochi istanti il locale va a fuoco e tutti si precipitano fuori. Una volta a salvo, King realizza di aver dimenticato la sua chitarra all'interno del locale. Istintivamente si precipita fra le fiamme e una volta afferrato lo strumento vede come l'edificio di legno inizia a crollare. Scampato miracolosamente il pericolo, volle sapere il motivo della rissa che aveva originato quel disastro. Gli dissero che i due uomini si erano azzuffati per una donna che lavorava nel locale. Il suo nome era Lucille. King, da allora, chiamerà sempre la sua chitarra con questo nome per evitare di commettere sciocchezze come quel giorno a Twist, nell'Arkansas. Questo è lo straclassico Every Day I Have the Blues. Oh, Leonard Chess non era per niente convinto di quel pezzo strumentale. Decide però di dargli un'altra opportunità e si mette a riascoltarlo. Quando parte la musica, s'affaccia alla finestra e nota sul marciapiede una donna che balla senza fermarsi. Rimette la canzone da capo e la donna la riballa tutta. Se aveva dei dubbi, vedere quella donna danzare gli fa cambiare idea. La pubblicherà e sarà una scelta felicissima perché Juke vola in cima alle classifiche e riempie di monetine i jukebox. In molti credevano si trattasse di un sassofono, altri di un organo. Rimanevano di sasso quando venivano a sapere che quella era un'armonica. Dopo quel successo iniziarono a chiamarlo il sensazionale Little Walter, e sensazionale lo era per davvero. Aveva spinto l'armonica verso orizzonti impensabili, diventando da subito il punto di riferimento per ogni suonatore dello strumento, il re incontrastato dell'armonica. This train, the train, this train. This train is a clean train, this train. Il 25 gennaio del 55, dopo 2 anni di insistenza di Willie Dixon per inciderla, decide di dare una possibilità a quella rielaborazione di un canto gospel, This Train, famoso nella versione del 39 della grande, grandissima Sister Rosetta Tharpe. This train, this train, have left the station, this train. Dixon aveva sostituito la processione dei santi verso il paradiso con la storia di una donna stufa delle corna del suo uomo. L'attesa sarà ricompensata da quasi 5 mesi in classifica, di cui 5 settimane al numero 1, il primo e unico pezzo a firma Dixon a diventarlo. Dopo questa canzone, la carriera di Little Walter inizia una piccola ma costante parabola discendente, complice l'uso smodato di alcolici che, unito al suo pessimo carattere estremamente irascibile, lo vedeva spesso in problemi con la legge o in frequenti risse che gli lasciavano il volto sempre più pieno di cicatrici. Pochi mesi dopo il mitico tour in Inghilterra, dove era idolatrato, torna a Chicago e nel giorno di San Valentino del 68, durante la pausa di un concerto al Teresa's Lounge nel Southside, è coinvolto in una rissa durante una partita a dadi. Big Guitar Red, testimone oculare, sostiene che viene colpito da un'armonica, mentre Junior Wells, anche lui presente, dice con un martello. Entrambi sono d'accordo nel dire che sembrava aver incassato bene il colpo e che se ne andò in macchina. Arrivato all'appartamento della sua compagna, le raccontò che era stato colpito alla testa e non si sentiva per niente bene. Alle 3 del mattino, la donna si accorge che il cuore di Little Walter ha smesso di battere. Aveva solo 37 anni. Non sarà mai ricordato abbastanza, nonostante in termini di successo superi abbondantemente i più quotati Muddy Waters e Howlin' Wolf, con 14 brani nella top 10, di cui 2 numeri 1. Juke e questa My Babe. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my babe. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand none of that midnight creeping, my babe. True little baby, my babe. My babe, I know she'd love me, my babe. Yes, I know she love me, my baby. Oh, yes, I know she love me. She don't do nothing but kiss and hug me, my baby. True little baby, my baby. Abbiamo imparato l'italiano solo per ascoltare Cioccolato Bianco. Sta de puta madre! You may go to college, may go to school. You may get religion, baby, don't you be nobody's fool. Now baby, come. Il giorno del suo 20° compleanno, l'8 gennaio 55, Elvis si esibisce al Louisiana A-Ride, dove è presentato come Memphis Flash. Fra un pubblico su di giri c'è il figlio della stella del country, Hank Snow. Jimmy Rogers Snow rimane incantato dallo spettacolo offerto. Il ragazzo racconterà dello show al colonnello Parker, un personaggio oscuro con la faccia da foca, che era colonnello come un elefante può essere la prima ballerina del Bolshoi. Parker, visto l'incredibile racconto del figlio del suo assistito, decide di andare a vedere con i suoi occhi quello strano tipo che faceva sbrodolare le ragazze. Il sabato successivo è fra il pubblico ad accogliere un Elvis vestito in completo color ruggine, cravatta rossa a pois neri e calzini rosa. Un look decisamente diverso dagli altri partecipanti, tutti agghindati come cowboys. Quando fa roteare il bacino, le ragazze urlano e gridano istericamente. Il colonnello capisce che può diventare una stella, a patto ovviamente che finisca nelle sue mani. Il 5 febbraio torna in studio per rivitalizzare Let's Play House, un brano di Arthur Lee Gunter, un bluesman abbastanza celebre nello stato del Tennessee, che aveva ottenuto un onorevole 12° posto nella classifica Rhythm and Blues qualche mese prima. Elvis apporta alcune modifiche al pezzo. Sostituisce la frase dell'originale You may get religion con You may have a pink Cadillac, in riferimento alla sua macchina rosa. E novità assoluta, l'inizio balbuziente. mi son messo a babbeggiare, Come back, baby, I wanna play house with you. There is a man to tell you, baby, what I'm talking about. Come on back to me, little girl, so we can play some house. Now, baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Wanna play house, baby. One thing, baby, I don't want you to know. Come on back and let's play a little house so we can act like we did before. But come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I wanna play house with you. Hit it. Understand, I'd rather see you dead, little girl, than to be with another man. And baby, come back, baby, come. Come back, baby, come. Come back, baby, I won't play out with you. Oh, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, come back, baby, I wanna play house with you. Il lato B è la prima composizione originale scritta apposta per Elvis da Bill Taylor e Stan Kessler, membri dei Snirkly Ranch Boys, una band di nome nel circuito country dove transitano personaggi come Jerry Lee Lewis, Bill Black e Jim Stewart, futuro fondatore della gloriosa Stax Records. Il pezzo, ispirato da un jingle della zuppa Campbell, quella di Andy Warhol, è il primo del gruppo con un batterista, Jimmy Lott, sostituito poi dal fedelissimo DJ Fontana. I'm Left, You're Right, She's Gone è un gioioso ballatone rockabilly che presenta un altro marchio di fabbrica del messia di Tupelo, il singhiozzo. Just don't care. We're right, I'm left, she's gone. We're right, and I'm left all alone. Well, he's trying to tell me so, but how was I to know? Like she, he was not the one for me. You told me all along. You're right, our love was wrong. But now I'm changing my mind, cause she broke the tie of mine, and I know that she'd never care for me. Well, I thought I knew just what she'd do, like it's something that's so smart. Or you trying to tell me all alone, she'd only break my heart. I'm left, you're right, she's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone, I know not where, but now I just don't care. For now, I'm falling for you. We'll be right back. now. I'll make it up somehow. So happy we will be in a home for three, and I'll soon forget her. Now I know. Well, I thought I knew just what she'd do. I guess I'm not so smart. Why you try to tell me all along? You don't break my heart. Well, you're right, I'm left. She's gone. You're right, and I'm left all alone. Well, she's gone. I know not where. But now I just don't care. For now, I've fallen for you. Bates è l'unico figlio di Ethel Wilson, la sedicenne figlia di un mezzadro del Mississippi, e Eugene Bates, sparito nel nulla prima della nascita del figlio. There was a chick, what a girl. La madre è talmente giovane e povera che non può mantenerlo, così lo fa adottare dalla famiglia della cugina, Gussie McDaniel, che darà a Ellis anche il cognome. That's your last boogie. Nel 1934, dopo la morte del padre adottivo, la famiglia McDaniel si trasferisce nel South Side di Chicago. Ellis, in chiesa, impara a suonare il violino. Lo studia per 12 anni assieme al trombone. Poi, un giorno, sente John Lee Hooker e capisce che ha perso tempo. Deve suonare la chitarra. Ma il ragazzo ha due manacce enormi più adatte a spaccare noci o distruggere mandibole che a suonare lo strumento. Erano talmente grandi che il bottleneck, il collo di bottiglia usato per l'effetto slide, non gli entrava nemmeno nel mignolo. Così decide di fare necessità virtù e suonare la sei corde come fosse un tamburo. Here I lay in my bed. Si costruisce il suo primo amplificatore da pezzi presi dal rigattiere. Poi, da un orologio a cucù, prende il separatore di segnale e una molla per ottenere un effetto che aveva in mente. Un effetto che fosse in grado di interrompere il suono e farlo riapparire. Un effetto che rendeva la sua chitarra intermittente, creando così il primo tremolo casalingo. Some advice, straight to you. Negli anni 40 si esibisce agli angoli delle strade e al mercato di Maxwell Street con l'amico Roosevelt Jackson, che suona un basso fatto con una tinozza, un manico di scopa e una corda per stendere il bucato. Al gruppo si aggiungono Jody Williams, suonatore di armonica ma convertito da McDaniels in splendido chitarrista, il vicino di casa della sua ragazza, Jerome Green alle maracas, e Billy Boy Arnold all'armonica. Inizialmente si chiamano Hipsters, ma poi cambiano il nome in Langley Avenue Jive Cats, dal viale dove vive con l'amico bassista. Il gruppo diventa fisso al 708 Club, un locale che ha visto passare molti grandi del Chicago Blues. All'inizio del 55 porta due demo, Uncle John e I'm a Man, a varie case discografiche. Gli unici a dargli un'opportunità sono i fratelli Chess, che rimangono impressionati da quel sound originalissimo. Ai fratelli però non piace il testo troppo spinto di Uncle John, così Bo Diddley, come si fa chiamare McDaniels, lo cambia scoppiazzando il testo di una vecchia ninna nanna, Mockingbird, conosciuta come Hush Little Baby, e consapevole di aver creato uno stile, lo chiama con il suo stesso nome, Bo Diddley. Il pezzo è ispirato dal ritmo di una danza proveniente dall'Africa centrale, Yuba o Embon, che risale all'epoca della schiavitù, quando agli afroamericani era proibito l'uso del tamburo, veicolo per comunicare chissà quali messaggi in codice. Embon, embon, Vista l'assenza dei tamburi, gli interpreti, per fornire le percussioni alla loro musica, si schiaffeggiavano varie parti del corpo. Il ritmo Ambon, fatto di tre colpi, pausa, due colpi, era già stato usato nel 48 da quel geniaccio di Johnny Otis con Joe Swift in That's Your Let's Boogie e con notevole successo nel 52 da Red Sanders. Ma nelle manacce di Bo Diddley il pezzo diventa il primo chiaro passo dell'evoluzione del blues e del rhythm and blues verso il nascente rock and roll. Il ritmo ossessivo e mesmerizzante prenderà il nome di Bo Diddley Beat ed è frutto della chitarra acquosa e carica di tremolo di Diddley e dalla spinta ritmica delle maracas di Jerome Green che donano un tocco latinizzante al sound. Temazzo dei temazzi, questa è la seminale Bo Diddley. Baby, diamond ring. If that diamond ring don't shine, he gonna take it to a private eye. If that private eye can't see, he better not take the ring from me. Diddley caught a nanny goat to make a pretty baby a Sunday coat. Bo Diddley caught a bell cat to make a pretty baby a Sunday hat. Come to my house with black cat bones. Take my baby away from home. Mother, that photo, where's he been? Up to your house, I'm gone again. Bo Diddley, Bo Diddley, have you heard? My pretty baby said she wasn't worth. Just woman told my mother. Bo Diddley era schizzata in cima alle classifiche e sarà nel corso degli anni uno dei ritmi più copiati in assoluto, dando origine a migliaia di canzoni come Not Fade Away di Buddy Holly, Please Go Home degli Stones, I Want Candy degli Strangelove, Magic Bus degli Who, Willie and the Hand Jive di Johnny Otis, 1969 degli Stooges con Iggy Pop, che poi riprende il ritmo in Last for Life, American Girl di Tom Petty, Panic in Detroit di Bowie, The Story of Bo Diddley degli Animals, Mystic Eye di Van Morrison, She's the one. And all the hoochie coochie man, everybody know I'm here. Ma Bo Diddley non è soprannominato The Originator solo per il suo ritmo. Infatti, il rovescio della medaglia del single è un altro capolavoro. cover obbligatoria di ogni band inglese della British Invasion e del garage americano. Il 2 marzo del 55, nelle stesse session che avevano prodotto Bo Diddley, il chitarrista, con l'armonica di Billy Boy Arnold, l'indispensabile Jerome Green alle maracas e l'aiuto di Willie Dixon al contrabbasso e Otis Penn al piano, risponde a quel donaiolo di Muddy Waters e alla sua Uchi Coochie Man con un'altra bella mostra di virilità. Everybody knows I'm here. Diddley decide che di quei 3 accordi della canzone di Muddy Waters ce ne sono 2 di troppo, perché quando hai un buon riff basta suonarne solo uno. Il risultato è la basilare I'm a Man. Now when I was a little boy at the age of 5, something in my pocket keep a lot of folks alive. Now I'm a man, May 21. You know, baby, we can have a lot of fun. I'm a man, I spell M A. Down the Kansas Zoo, bring back the second cousin, Little John the Conqueror. My man, spell him A. I'm a man, I spell him A. Se non fosse stato per la sua forza di volontà e la sua caparbietà, non potremmo parlare dell'artista afroamericano con più vendite negli anni 50. Quando lavorava in una fabbrica di letti, si era sbrancato una mano con una molla, una ferita che aveva richiesto vari punti di sutura e un grosso punto interrogativo sulla sua carriera come pianista. Fortunatamente, grazie alla sua ostinazione e al continuo esercizio, riacquisterà la mobilità della mano. Per mantenere la famiglia, oltre al lavoro, arrotondava con le esibizioni al Hideaway Club di New Orleans, dove suonava per $3 a notte. È qui che viene notato da Liu Chad, il proprietario della Imperial, la piccola casa discografica di Los Angeles, che sgomitava per farsi un posto di rilievo fra le innumerevoli discografiche nate negli anni 40 e 50. Chad ci aveva visto giusto anche nell'affiancargli il suo Willie Dixon, Dave Bartholomew. Il sodalizio c'entra subito il successo con The Fat Man nel 1950, uno dei primi rock and roll ante litteram, il primo di una lunga carrellata di successi senza eguali fino al passaggio di Elvis alla RCA. Le sue canzoni erano perfette anche per il pubblico bianco, perché non contenevano allusioni sessuali o volgarità come quelle dei suoi colleghi afroamericani. Marzo del 55, Fats Domino, con la band di Bartholomew, che includeva il più grande batterista dell'epoca, Earl Palmer, registra ai mitici studi J&M di Cosimo Matassa Ain't That a Shame, che oltre a conquistare il numero 1 rhythm and blues, entrerà anche nella top 10 delle classifiche pop. And it's a shame. When I think of the life I live. Il brano prende spunto da Ain't It a Shame di Lloyd Price e sarà la prima canzone di rhythm and blues ritoccata in studio. Infatti, l'italo-americano Cosimo Matassa accelera il brano per enfatizzarne il ritmo. Well, I may be too late, but I have only one life to give. Come quasi tutti i successi rhythm and blues, anche il brano di Fats verrà sottoposto a whitewashing da un giovane bianco di bella presenza, modi educati e una perfetta pronuncia dell'inglese, Pat Boone, che diventerà l'indiscusso re dello sbiancamento. L'imbarazzante versione di Boone raggiungerà la vetta dell'hit parade e il successo internazionale, lasciando di stucco Fats Domino. When I fell down on my knees. La cover di Boone, infatti, era uscita in concomitanza con l'originale per colpa di uno dei DJ più famosi d'America, Bill Randall di Cleveland. Randall conduceva un programma, Interracial Good Time Hour, che suonava musica bianca e nera. Quelli della Imperial gli avevano inviato una copia prima che il pezzo fosse messo alla vendita. A Randall il brano piaceva parecchio, così come aveva fatto per She Boom, lo aveva inviato a Randy Wood, proprietario della Dot Records, un'etichetta dedica a sciacallare la musica nera. Meno male che la storia ha messo ognuno al suo posto, rendendo immortale l'originale di Domino e facendo cadere nel dimenticatoio l'obbrobrio di Boone. I'm gonna change my way of living. I'm gonna deliver myself from shame. Con un pianoforte blues, un overdose di sassofono e la voce calda di Domino, questa è Ain't That a Shame. You make me cry when you say goodbye, ain't that a shame? You made me cry when you said goodbye, ain't that a shame? My tears feel like rain, ain't that a shame? My heart, when you said we'll part, ain't that a shame? My tears fell like rain, ain't that a shame?